Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10:07, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero. Oggi vi voglio assolutamente agguerriti, quindi preparatevi, perché l'argomento della puntata di questa domenica vi coinvolgerà per forza, cioè non può non coinvolgervi perché riguarda tutti noi universalmente parlando. Non vi anticipo l'argomento, a parte che se andate su Facebook, sulla pagina del riposo del guerriero già lo trovate scritto, o sul sito di Radio 24, ma gli altri invece, per gli altri sarà ancora un piccolo mistero. A proposito di mistero, c'è Francesco Guardi in 24 minuti, oggi per voi la possibilità di entrare alla mostra a Venezia e avere anche il catalogo, ammesso che riusciate ad associare le canzoni che vi farò ascoltare a una delle opere dell'artista. Vi faccio ascoltare il primo indizio di oggi. Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera come il carbon. Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera. Eccolo qua, questo è l'indizio che vi porterà a associare questa canzone a una delle opere di Guardi. Si giocherà alle 11:30, per cui vi aspetto dopo. Tanto se volete prenotarvi, 800 24 00 24 è il numero per giocare più tardi. E veniamo all'argomento di oggi. Oggi dobbiamo pestarci, ma sorridendo ovviamente, magari a parole, ma cercare di capirci anche, perché l'argomento è maschi contro femmine, una diatriba che andrà avanti per sempre, da sempre, e così sempre sarà, ma a noi piace questo. Vogliamo quindi capire quali sono le differenze, le cose di un genere che non piacciono all'altro e viceversa, quali invece piacciono, insomma ci saranno delle cose del genere opposto che piacciono, no? Per cui vorrei capire quali siano, ma soprattutto poi con i nostri ospiti cercheremo di capire come i due generi siano diversi e dove lo sono, anche grazie ai vostri messaggi. Il numero per i messaggi 349 238 6666, e per iniziare parliamo di maschi. Si chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai giubbotti. Ogni carezza della notte è quasi amor. Per cominciare quindi Gianna Nannini, ovviamente, maschi contro femmine, e Laura Carafoli, buona domenica. Ciao Laura. Buongiorno, buona domenica. Allora io provo a tradurlo. Vicepresidente contenuti e programmazione di Discovery Italia, va bene? Perfetto, certo. Ma no, perché le cariche in inglese, so che voi le avete perché Discovery è una realtà americana, e sono sempre un po' più complicate da capire. A me piace l'italiano. Va benissimo così. Posso chiederti di parlare davanti al microfono? Certo. Grazie, spostalo, anche se sei più comoda. Allora, vabbè, voi come Discovery avete tanti canali. Sì. E due in particolare, uno sono di Max e l'altro Real Time. Real Time principalmente legato al mondo femminile, e invece di Max principalmente legato al mondo maschile, anche se poi i mondi si intrecciano, ovviamente. Verissimo, quindi vuoi partire dalla televisione per parlare? Parto dalla televisione, beh, perché in fondo, insomma, spesso partiamo dalla televisione e dal media in generale, il media che insomma più conosciamo, per parlare di generi, perché è sempre stato così. È verissimo, guarda, noi in realtà forse siamo un esempio ottimo, perché siamo su Real Time al 70% donne, quindi il 70% del pubblico è femminile, addirittura durante il giorno l'80% di mattina, di pomeriggio, e su D-Max il contrario, quindi 70% sono maschi, quindi conosciamo molto bene i due soggetti in questione, sappiamo anche che cosa dare a loro da vedere. La cosa bella è che questi due canali, che sono appunto disponibili sul digitale terrestre, quindi è un pubblico molto mainstream, non è un pubblico diciamo della pay, è un pubblico che in qualche modo non aveva mai avuto a che fare con dei contenuti tipo i nostri. Pubblico mainstream che cosa significa? Che è un pubblico, se vuoi, piuttosto come dire, non semplice, però che è abituato a avere un rapporto con la televisione piuttosto basico, nel senso che non ha avuto modo magari di accedere al mondo pay, al mondo premium, non conosce magari certi contenuti internazionali perché banalmente ha visto sempre solo i 7 canali generalisti. Sì, sì. Quindi era molto più complicato offrire a loro dei contenuti come i nostri, che erano quasi tutti internazionali, parlo di D-Max, con l'oversound, cioè comunque gente che parlava in inglese si sentiva sotto e sopra con una voce, quindi insomma poteva essere complesso. Avevamo un po' paura all'inizio, in realtà abbiamo visto che il pubblico italiano, anche quello, se vuoi, meno educato alla televisione internazionale, immediatamente si è guardato i nostri canali. Ma anche la cosa bella è che abbiamo anche un po' sfatato un mito, nel senso che fino a un certo punto ci si diceva le donne guardano i talk show, guardano i reality, guardano le soap e questo è quanto. Gli uomini guardano il calcio, guardano un po' di dibattiti televisivi, quelli politici e questo è quanto. Non è vero, guardano benissimo anche dei contenuti che sono invece relativi a altre passioni. Hanno altre passioni gli uomini e anche le donne. Quindi in qualche modo ne abbiamo risposto a questa domanda che c'era. Funzionava in tutto il mondo, perché non qua? La domanda chiave è che c'è proprio una differenza comunque di gusti e che non sono tanto legate all'educazione, perché è così in tutto il mondo. È vero, esatto. Ci sono dei gusti. Dunque, prima di tutto la cosa che piace agli uomini sono le sfide. In generale. Sì. Cioè l'uomo piace comunque in qualche modo essere sfidato. Quindi anche se tu gli fai vedere la serie sul cibo, cosa per esempio è molto interessante, il cibo e la cucina è un elemento che unisce moltissimo i due generi. Sì. Però se alla donna gli fai vedere il cuoco belloccio oppure cattivello che cucina e gli va bene vedere quello, al maschio gli devi far vedere qualcosa di estremo. Allora devi fargli vedere il cibo bizzarro, la cavalletta, devi vedere quello che mangia 100 hamburger, devi vedere la cosa più estrema, non so, però ci sono dei tratti comuni. Oppure se tu vedi anche per esempio la natura, la donna vuole vedere magari il viaggio, la parte, invece l'uomo vuole vedere la cosa proprio che lo mette in qualche modo in difficoltà. Ecco, voi avete studiato chiaramente i due generi per poi capire e cercare poi di andare incontro alle richieste. Ne parliamo e intanto anche voi, se volete commentare quali sono le differenze più grosse secondo voi, se poi ci sono, perché è vero che tutto sembra banale, però in realtà poi è così, è un dato di fatto. Il riposo del guerriero. Oggi parliamo di maschi contro femmine, col sorriso ovviamente. Dennis scrive su Facebook: le donne sanno litigare sempre per qualsiasi cosa, a volte litigano anche da sole. Non lo so, Laura. Forse è vero, sì, ce la raccontiamo, è vero. Però va bene, dai. Eppure la sfida piace di più agli uomini. Pazzesco, sì. Piace di più agli uomini, è vero, sono in televisione, guardano cose molto estreme che li mettono in difficoltà, però poi se si girano e vedono probabilmente la moglie o la compagna non vogliono assolutamente sfide e piuttosto si ritirano nei silenzi che conosciamo. Sono come gli Indivanados che il nostro buon Gianluca Nicoletti aveva così sottolineato in una bella puntata del programma, appunto, dove dicevano quelli che combattono contro tutto ma stando seduti sul divano. No? Perfetto, è vero. Sono così. E, allora, il fatto che avete studiato gli uomini e le donne, conoscete più gli uomini, mi hai detto, delle donne? Sì, diciamo che storicamente Discovery è una media company mondiale che nasce 25 anni fa proprio con Discovery Channel in America. Quindi da 25 anni il focus è stato principalmente il maschio. L'abbiamo conosciuto veramente in tutte le sue passioni. Quindi abbiamo portato da anni sullo schermo quelle che erano le passioni maschili, raccontate in tutte le varie declinazioni del factual, perché come tu sai Discovery non ha mai prodotto fiction, sempre solo factual, anche se l'ha fatto con dei livelli qualitativi che a volte, voglio dire, non hanno niente da invidiare alla fiction. Sulle donne in realtà abbiamo molta conoscenza noi, più che altro in Italia, perché il caso di Real Time è un caso unico al mondo, cioè questo canale ha avuto una vita unica in Italia. Siamo partiti da un piccolo canale sulla piattaforma di Sky 7 anni fa e si è pian piano costruito una grande identità, che poi è arrivato 2 anni fa sul free con già un bagaglio di conoscenza molto grossa. Sapevamo che cosa piaceva alle donne italiane. Cosa piace alle donne italiane? Scusami, sì. Parentesi, alle ascoltatrici chiedo di inviare un sms con che cosa vorreste vedere in televisione, no? Per bello. Capire, vediamo un po' poi che le cose come si associano, oppure su Facebook, scusate, ho interrotto. Bellissimo, no? Questa è una cosa che tra l'altro noi facciamo sempre. Tu devi sapere che in realtà ma quasi 800.000 amici su Facebook, sì. E abbiamo un panel di nostri ascoltatori che si sono in qualche modo iscritti, sono 17.000 donne che alle quali chiediamo delle cose, chiediamo che cosa vogliono vedere, gli facciamo vedere anche dei pilot, perché la forza di Real Time è proprio essere così vicini al nostro pubblico. Tu sai che sul canale non abbiamo nessun conduttore televisivo vero e proprio, tutti i nostri talent, così li chiamiamo, sono persone che vengono dalla professione. Esatto, quindi... dalla passione, e sì. Quindi tu riesci a comunicare una cosa, la fai diventare, cioè se è una cosa propria riesci a comunicarla perché piace a te per primo, insomma la forza è quella lì, sempre sì. Della conduzione in generale. Esatto, poi. Esatto, le cose che tu mi chiedevi che piacciono di più, come la sì. Cosa che piace da morire, il matrimonio. Questo però non solo in Italia, come uno potrebbe immaginare. Ne abbiamo parlato in una puntata proprio sul matrimonio. Diventano pazze per gli abiti da sposa. Tu fai vedere un abito da sposa e tu sei sicuro che dopo lì avrai un riscontro pazzesco. Paola Marella, buona domenica. Buongiorno, buongiorno. Ciao Paola. Ciao Paola. Allora, è conduttrice proprio di Real Time, con programmi tipo Vendo casa disperatamente, Cerco casa disperatamente. Hai scritto anche un libro che è Arredo casa disperatamente. Allora Paola, io volevo chiederti quali sono le differenze di genere nel momento in cui, per esempio, si sceglie un appartamento o una casa. Sicuramente, generalizzando un po'... Sì, beh, bisogna farlo, questo è ovvio. Cioè. Esattamente. Le donne sono più propense a guardare tutto quello che è funzionale in una casa. Quindi i famosi armadi sono la prima cosa che ti chiede una donna, la possibilità di avere più armadi possibile o spazi per poter riporre. Mentre l'uomo è più propenso a vedere e a verificare se c'è posto per i suoi hobby, cioè sicuramente il box... Sicuramente il posto per la televisione è molto comodo per le partite. Scusa, rido, sorrido, sai perché? Io mi sto spostando di casa e proprio ultimamente, parlando con i muratori, stanno facendo i lavori e dicono: qui potresti mettere l'armadio. E io ho detto: ah, già che c'è anche l'armadio. Avevo completamente scordato quella parte, invece è vero che mi interessava di più capire dove potessi mettere il divano, guardare la TV piuttosto che il computer. Era molto ragionevole, mi riguarda da vicino e credo che sia una buona generalizzazione. Quindi insomma noi dimentichiamo le cose, i posti dove riporre. Voi dimenticate soprattutto la praticità, diciamo così, una donna è costretta tra virgolette ad avere una visione a 360 gradi in una casa, soprattutto in una famiglia, in una gestione, comunque la donna deve guardare a 360 gradi. Di solito l'uomo non lo fa, in realtà ultimamente è cambiato un po' anche questa situazione, perché ci sono degli uomini bravissimi secondo me, anche perché costretti dagli eventi con donne che super lavorano, vero Laura? Sono costretti a dover diventare degli ottimi padroni di casa. Però va bene, voglio dire, poi i generi si devono per forza sovrapporre, devono venirsi incontro, questo c'è. Poi però c'è un istinto, ecco, che ti fa sempre propendere per una cosa piuttosto che per l'altra. E per quanto riguarda, ad esempio, i colori dell'arredamento, c'è un'unità almeno in questo o anche in questo si possono fare? Neanche in questo. Tendenzialmente, nel senso che la donna ha sempre piacere di osare un po' di più, cioè sì. Di sperimentare, di conoscere, un po' come nella moda, no? Tendenzialmente la donna ama molto vedere, conoscere non so, io, le sfilate dei nuovi stilisti, poi magari io dico sempre, non è detto che uno possa comprare questo, ma magari ispirarsi sì. Sì, quindi anche nelle case, ed è un po' quello che abbiamo fatto con Vendo Casa, tendiamo a proporre dei colori perché sappiamo che questo colpisce molto colore, rinnovamento le donne. In realtà gli uomini sono più classici, anche se poi un pochino si fanno trascinare alcuni, altri sono fermi e irrimovibili. Ecco, su che cosa gli uomini sono per esempio irremovibili e le donne di conseguenza, se hai trovato appunto un elemento, Paola? Guarda, ti posso dire, adesso sì. Non per sminuire, ma siamo qui per l'uomo, questo. Per il quieto vivere tendenzialmente va incontro a una donna. In realtà su alcune cose appunto non prescinde che... È quello che voglio sapere. La comodità del famoso posto auto, sì. E l'angolo televisione, perché su quello veramente c'è come dire un po' un punto fermo e totalmente imprescindibile. Infatti di solito la seconda scelta della televisione durante le partite è sempre della donna, cioè l'uomo sceglie di vedere la partita, la donna deve scegliere una seconda televisione. Quindi comunque questa generalizzazione oggi ancora vive. sì, non c'è niente da fare. Secondo me in massima parte. Poi, come ti dicevo, secondo me ormai la vita di oggi è una vita che ci costringe, tra virgolette, a doverci sovrapporre quotidianamente in tutto e per tutto. Dico maschi e femmine perché poi in realtà dobbiamo renderci utili in ogni modo per far girare il tutto, che diventa sempre in questo momento è particolarmente difficile. Certo, va bene, insomma, poi chissà se questa sovrapposizione poi arriverà a essere sempre più marcata o meno, il futuro ce lo dirà. Grazie Paola Marella e buona domenica. Grazie, ciao. A voi, ciao Laura. Ciao Paola, grazie. Ciao. Laura, allora, avendo studiato uomini e donne, dicevamo, alle donne piace sposarsi, il vestito da sposa, ma solo per il vestito, per tutto quello che lo ne so, consegue. Però ti posso dire che invece il fatto di sentire Paola è molto interessante, perché la casa, ovvero tutto quello che riguarda la casa, è l'unico, è uno dei pochi con la cucina elementi di unione, nel senso il programma di Paola Marella il giovedì sera, sia Vendo che Cerco Casa, mettono insieme uomo e donna, cioè facciamo 60% donne e 40 uomini, sì, perché effettivamente c'è un interesse comune, soprattutto quando tu vedi appunto delle ristrutturazioni, l'uomo c'è, è presente, quindi è uno dei temi che in qualche modo unisce, mentre il matrimonio, l'abito da sposa, il sogno, questa parte qua più prettamente femminile, come anche lo shopping, come anche il Ma come ti vesti, che è un programma di moda. Qual è un programma invece esclusivamente maschile? Che c'è su Real Time? Sì, che le donne non riescono a vedere, o sono allora, la percentuale è veramente bassa. Su Real Time, devo dire, faremmo male il nostro lavoro se mettessimo delle cose molto maschili, ma ti posso dire che il programma in assoluto che piace di più ai maschi sono due in realtà. Uno è Sepolti in casa, che è un programma di un fenomeno sì, tragico, ma anche tu ridi, no, però non c'è perché il titolo Sepolti in casa sembra un film horror, hai capito? Esatto. Ecco, Sepolti vivi. In realtà Sepolti dalle cose. Dalle cose. Questo fenomeno che in America è dilagante, ovvero è una specie di faccia brutta del consumismo, nel senso che a un certo punto ti hanno detto per tutta la vita compra, compra, compra, sono delle persone che per motivi psichiatrici piuttosto seri non hanno più saputo buttare via nulla, tengono tutte, hanno queste case sommerse da spazzatura alla fine, ed è un fenomeno serio che esiste anche in Italia peraltro, ci hanno segnalato che esistono moltissime case anche in Italia, ed è visivamente è impressionante. Poi c'è tutto l'aspetto un po' più emotional in qualche modo, che ti dice perché queste persone stanno male. Un altro programma che ahimè, io dico ahimè, però in realtà è un programma fatto benissimo, va in onda su Channel 4 in Inghilterra, che si chiama Malattie Imbarazzanti, sì, che è un programma di medicina, se vuoi, anche lì piuttosto estrema, piace tantissimo anche agli uomini. C'è una forma, come dire, di ipocondria maschile, secondo me, che è più forte di quella femminile, che fa seguire questi programmi di medicina. Questo su Real Time, e poi ovviamente su D-Max ti posso dire il contrario, quali sono i programmi che piacciono più alle donne, sì, su un target maschile. E se vuoi, la cosa che clamorosa è che piacciono i programmi di motori, sicuramente Top Gear, che è un programma di motori molto divertente, che vede insomma non soltanto la macchina e basta, ma ci sono anche dei giochi intorno, piace molto alle donne. E poi piacciono i programmi di aste, auction li chiamiamo, sì, dove si vedono, esatto, quindi alle donne piace molto il gioco, piace molto l'azzardo, quindi questa è una forma di, diciamo, di condivisione. Ecco, magari un lato inaspettato però c'è, ecco, quindi comunque sia, perché devo dire che in effetti chiedere agli spettatori o capire insomma com'è la divisione di generi e anche di età, poi le vedremo, è interessante per capire se c'è un istinto, a quanto pare c'è, e poi vedremo anche di dividere per età. Cominciano ad arrivare i messaggi, qualcuno chiede com'è possibile proporre delle trasmissioni, e poi alla fine della puntata vi daremo magari delle mail o la possibilità di mettervi in contatto con Il riposo del guerriero. Maschi contro femmine, vediamo i generi come si comportano in determinate situazioni. Enzo Miccio, ciao, buona domenica. Buongiorno, grazie a voi dell'invito, come state? Bene, bene, grazie Enzo. Allora, Shopping Night, il programma che stai conducendo, mi dicono che condurrai un nuovo programma che si intitola, sì, Laura... L'eleganza del maschio, lo aspettiamo con ansia. Allora, ciao Laura. Ciao. Parliamo proprio di... Non di moda, no, questo no, ma di shopping in generale, perché quando si parla di acquisti, Enzo, i due generi si dividono completamente, mi sembra. Bah, devo dirti di sì, nella mia esperienza personale si fa molto più fatica a comunicare col maschio, perché si sente ferito nel suo orgoglio personale di maschio, quindi pensare di doversi affidare per per far qualcosa, per scegliere delle cose, per fare dello shopping, e quasi dover ammettere: io non sono capace. Ecco, quindi concettualmente emerge questo lato, cioè l'uomo non vuol farsi consigliare, la donna sì, in generale? Assolutamente sì, la donna è più disposta ad ammettere questa sua defianza. La donna infatti chiede le strade dove sono, le informazioni, invece l'uomo deve arrivarci per forza. Bravissimo, esattamente, la dinamica è la stessa. Sì. Mi è successo qualche volta, però devo dirti che qualcuno in modo più amorevole si sia affidato alla moglie. Affidarsi significa in un certo senso immediatamente dichiarare, palesare la sua inferiorità in quel campo. Certo. Però deve essere limitata a quel campo, deve essere chiaro, come per dire: io sono il maschio e sono bravo a tutto, però per scegliere le magliette lo faccio con mia moglie. Cioè, questo è il messaggio. Senti, nell'eleganza del maschio cosa succederà? Nel senso che tu cercherai di consigliare dei maschi a questo punto, mi sembra di capire. Sì. Sono dei maschi che però sono selezionati, segnalati sempre da donne che in qualche modo mi spediscono il marito. Si dicono: fai in modo che mio marito sia un po' più presentabile, quello è un bravissimo. Po' il senso. Ecco, presentabile, ma ti dirò di più, non solo per l'aspetto estetico, ma anche una serie di regole di savoir vivre, così di bon ton, di comportamento, che molto spesso l'uomo completamente ignora. Enzo, quali sono le cose nell'abbigliamento a questo punto che proprio l'uomo non riesce a mettere insieme? Cioè proprio non ce la fa, generalizzando ovviamente. Va generalizzando, lui fa molta fatica ad abbinare i colori. Sì. No, voglio dire, a partire dalle calze. Sì, il blu col pantalone nero va bene, ecco, tanto sono scure tutte e due. Sono scure tutte, ma chi se ne accorge? Ti dice: ma chi mai li vedrà? Ti pare possibile una risposta del genere? Già mi fa rizzare quei quattro capelli che ho in testa. E poi... E le donne invece che cosa non riescono? Ci sarà qualcosa che le donne non riesce comunque nell'abbigliamento a... così, a scegliere nel modo giusto, mi sbaglio, magari non c'è. Ma no, non ti sbagli, c'è una cosa che secondo me è abbastanza comune a tutte: prendere contezza della propria taglia. Stavo dicendo proprio quello, io volevo dire quello, però non volevo essere offensivo, che cioè, il concetto di dire che hai una 48 e piglia una 48, la 46 la lascia a qualcuno, faccio un esempio, esempio casuale. Succede? Stefano, non è solo nel caso di quando uno è un po' più curvy, ma succede anche quando uno è molto magro. Anche il contrario, ecco. Sì, certo. Vabbè. Quindi comunque la forma fisica da quel punto di vista attanaglia sempre elementi delle donne quando scelgono come abbigliarsi, va bene? Insomma, quindi anche qui i generi si dividono e si accapigliano, anche perché a quanto pare gli uomini non vogliono ascoltare. Lo dovranno fare invece con il nuovo programma di Enzo Miccio. Grazie, buona domenica. Grazie. Ciao, a Enzo. Voi, buona domenica. Ciao, ragazzi. Ciao, ti vedo sorridere, Laura. Sì, perché il programma sarà molto divertente. Ma tu rappresenti il genere femminile? Ti ritrovi molto in... domanda, oddio, sì. Questa domanda, cioè, mi rappresenti, fa... ti ritrovi nelle generalizzazioni che stiamo facendo, non ti... Sì. Ritrovi in quel senso, abbastanza, domanda, diciamo di sì. Poi comunque da Enzo mi farei consigliare qualsiasi cosa, perché veramente ha un modo di fare sempre ironico, anche secondo me molto giusto, perché prendersi troppo sul serio, che tu sia uomo, che tu sia donna, secondo me poi è la cosa che ti fa in assolutamente sempre sbagliare nelle occasioni. Sì, diciamo che sì, mi ritrovo, dai. Sì. Lo presenti, quindi anche tu fai parte di quella percentuale alta. Anna Carmen Localzo, ciao, buona domenica. Ciao Stefano, buongiorno a tutti. Anna Carmen ha scritto un libro, si chiama SMS Solo Mia Sarai. Solo mio, scusami, hai ragione, no, è vero, è così. È proprio perché è un acronimo farlocco, ovviamente inventato, sì, perché a quanto pare, Anna Carmen, da una tua indagine sì, hai scoperto che i messaggi inviati dal telefonino sono... non dico prettamente femminili, ma hanno una percentuale molto più alta rispetto a quelli usati dagli uomini per comunicare. Sì, esatto Stefano, è vero, la sensibilità femminile, diciamo anche nella comunicazione digitale, prevale su quella maschile. La donna, come dicevate voi prima, ama il sogno, no? Abbiamo ormai assodata questa cosa, la donna ama il sogno, ama un po' sublimare, per cui... L'SMS, che appunto è stato quel mezzo rivoluzionario, il primo, almeno per quanto mi riguarda, per la mia generazione, è stato il primo mezzo digitale, seguito poi dalle chat dai social network, è quel mezzo che ti permette insomma davvero di sublimare dei momenti, di enfatizzare, però purtroppo le donne magari la vivono in questo modo e l'uomo invece no, lo vive come un surrogato di gesti e anche a volte spesso di regole di galateo che magari vengono superate perché il mezzo tecnologico, per questa sua immediatezza, ti permette di arrivare facilmente all'obiettivo. L'uomo la vive un po' così, ecco, questa esperienza. La donna invece vive l'SMS appunto come quella ciliegina sulla torta che gradirebbe ricevere, insieme ovviamente ad altri gesti, e a sua volta la utilizza in questo modo. Quindi l'SMS è un segno d'attenzione, cioè le donne spesso desidererebbero ricevere SMS come segno banale di attenzione, anche un semplice ciao ti sto pensando oppure qualunque cosa. Oppure ciao andiamo a cena stasera, ecco. Invece, e gli uomini invece per che cosa manderebbero gli SMS? Per cose più pratiche? Uomini li mandano sì, per cose più pratiche, decisamente per cose più pratiche, non amano i lunghi botte e risposta. Diciamo che liquidano in fretta. Ecco, l'uomo è come sempre, come d'altronde è per natura, più concreto, più pratico, e quindi l'SMS davvero per lui diventa quel surrogato che in certi momenti della giornata sostituisce la telefonata. A me fa sorridere, quelle sai, piccole cose che... Sai cosa mi fa sorridere, Anna Carmen? Che allora l'uomo è più pratico, più concreto, però poi abbiamo sentito quando si parla di arredamento si dimentica dell'armadio e invece in quel caso è più concreta e pratica la donna. Quindi in realtà non si capisce dove andiamo a parare. Cioè, è dove... difficile generalizzare, però ecco, io nella mia analisi, poi sai, io racconto anche storie che mi sono state raccontate da donne, diciamo che io nel mio libro sono un po' più dalla parte della donna perché ho deciso di essere così, però non vorrei neanche generalizzare troppo perché è chiaro che poi ci sono anche delle sensibilità maschili. Sì, ma è chiaro, lo stiamo facendo perché nel momento in cui vogliamo oggi dividere i generi è chiaro che dobbiamo generalizzare, questo accade per forza, poi è chiaro che le commissioni ci sono e gli incastri per forza di cose ci sono, però fondamentalmente un po' di generalizzazione bisogna farla. Certo. Quindi tu hai trovato l'80%, cos'è, 80% delle donne ama gli SMS rispetto al 20% degli uomini. La donna poi sfoga molto nell'SMS, diciamo che l'SMS per la donna in certe situazioni è davvero un mezzo per riuscire a dire cose che magari l'uomo in quel momento non ha voglia di sentirsi dire perché non c'è tempo, perché appunto fugge. Allora l'SMS diventa proprio quel modo per riuscire a sfogare, quindi ho anche notato che le donne scrivono lunghi SMS mentre l'uomo ti risponde col monosillabo e allora lì ecco, poi ti accorgi quando ricevi la bolletta, perché a volte per alcuni operatori addirittura gli SMS sono più costosi delle telefonate, del minuto di telefonata e quindi a quel punto c'è uno studio sicuramente che riguarda anche questo per essere arrivati a una scelta di questo genere. Oggi ci hanno come dire facilitato la vita con questi pacchetti, tu compri il pacchetto proprio perché compri il pacchetto di 1000 SMS al mese ti sfogli, dici bene, ne posso mandare più che e quindi cominci a scrivere pagati, e allora lì ma forse ecco, insomma il fatto di scrivere, sai, tenere il diario è una cosa prettamente femminile e forse i messaggi sono un modo per farlo, è anche un modo per dire a se stessi delle cose, per metterle nero su bianco, no? La tecnologia permette appunto di usare i messaggi, quindi è vero, tu magari li comunichi, in questo caso a un'amica o a un amico, perché no, e in realtà è un modo come farli propri, come averli scritti su un diario, potrebbe essere anche questo la visione. Benvenga la scrittura e benvenga la comunicazione in tutte le sue manifestazioni. Quello che io invece bandisco è l'SMS di servizio, come lo chiamo io, cioè non si può mandare un SMS a una persona per dire ci lasciamo oppure, vabbè, questo non prendiamolo neanche in considerazione, oggi non lo prendiamo neanche in considerazione perché una storia che si interrompe via messaggio senza parlarsi, voglio dire, e mi chiedo cosa sia stata prima, ecco, ma non è detto, sai, però effettivamente io poi dico anche le persone appunto si conoscono comunque da prima, per cui certe cose forse uno se le può anche aspettare. Ecco, mettiamo in conto che oggi con l'SMS ci si può anche lasciare, così come ci si può incontrare, come ci si può conoscere meglio, ma ci si può, possono succedere purtroppo anche queste gravi, questi gravi fatti, insomma io li definisco anche proprio di maleducazione, per cui occhio, perché Va bene, questo sì, certo, poi entriamo in un campo anche un po' diverso. Grazie Anna Carmen Localzo, buona domenica. Ciao. Grazie a voi. Vi ricordo libro SMS Solo mio sarai. E, allora, Laura, tornando a noi, la tecnologia, per esempio, è un 50-50 o è ancora appannaggio degli uomini? No, assolutamente appannaggio degli uomini. Però devo dire che la cosa interessante è che le donne che seguono Real Time, vivono il canale anche fuori dallo schermo televisivo. Quindi, come ti dicevo, quelle 800.000 amiche di Facebook, quelle che partecipano alla social TV, sono tantissime. E la cosa anche che mi fa abbastanza impressione, che lo dico sempre quando mi capita, è che ormai i nostri programmi vengono fatti esclusivamente dalle protagoniste, cioè dalle nostre telespettatrici, perché noi quando facciamo un cast lo mettiamo online e dopo un'ora abbiamo tipo 3.000 applicazioni di persone che vogliono partecipare a fuori menù, a ma come ti vesti. Quindi in qualche modo è vero che la tecnologia pura, come quella che conosci bene tu, diciamo appannaggio dei maschi, però l'andare sul sito, l'utilizzo, diciamo quotidiano, magari con non arrivare proprio al Twitter proprio, però andare sul sito, iscriversi, partecipare ai programmi tramite la tecnologia è sicuramente una cosa femminile. Ecco, poi magari arrivare a giocare al gioco, che oltre il giochino, se vuoi come ti vesti, mi ti spo, non fanno magari le donne, quelle più maschile. Però sicuramente sì. La cosa che mi interessava, secondo me, le discorse che facevate prima, sì, la domanda interessante era, a proposito di tecnologia, quante donne o quanti uomini spiano le SMS degli altri, dei mariti o delle donne? Cioè, secondo me è molto più femminile andare a controllare e sperare magari di trovare. Quindi magari il ti lascio nasce dal fatto che poi hai scoperto, non lo so, questo per esperienza, non so, personale, ma anche di chi mi sta intorno, è molto più della donna. Quindi secondo te nell'andare a spiare un messaggio c'è in qualche modo anche la volontà, in fondo c'è anche il desiderio di trovare un errore, qualcosa a cui appigliarsi? Purtroppo sì, lo dico perché la curiosità è femmina, questo è diciamo una base. Io proprio per abitudine non guarderei, come non guarderei mai nella borsa, per esempio. Perché sei un maschio. Cioè, non lo farei mai. Beh, però non so, io credo che anche gli uomini lo facciano, però insomma non lo so, dici meno, vabbè. Allora, Simona scrive su Facebook: detesto la parola shopping, detesto il cliché che si porta dietro, detesto vedere le facce degli uomini costretti a seguire le donne nel giro di shopping. Beh, quello sì, insomma, quando vedi che sono trascinati a forza. Sì, infatti noi diciamo non ne parleremo mai di shopping su un canale maschile, per carità, ce lo sappiamo benissimo che potrebbe essere un supplizio. Non funzionerebbe. No. Non c'è un programma, credimi, se non un programma di, in qualche modo, di intrattenimento che è diventato Pazzi per la Spesa, che non è più shopping. Non so se l'hai mai visto, quello di Coupon, dove si va praticamente a risparmio totale come una gara. Allora lì dove c'è la competizione, ti compro, esatto, 4.000 euro, ti pago un euro, mi diverto. Ma se no, lo shopping puro... Niente, noi siamo esclusi, insomma, da questo mondo. Il riposo del guerriero. Dexter... con un SMS, mi fa ridere perché è un personaggio di un videogioco molto famoso che era Space Ace. Allora, adoro anche, se sono un uomo, Pain Your Life, ma mi sono sempre chiesto perché Barbara nelle prime serie dipingeva tutto di grigio. Beh, domanda diciamo complessa. Vero, era un po' più, forse meno dedita ai colori, però adesso nelle nuove stagioni, vuol dire, anzi, c'è tutto fiori, tutto rosa, tutto verde, quindi secondo me se guarda adesso si rincuora. Cos'è che manca secondo te nella TV di genere, chiamiamola così, genere nel senso maschio e femmine? C'è qualcosa che ancora non è stato raccontato? Guarda, mi fai una domanda che è quella che mi pongo. Eh beh, immagino, e ci poniamo il tuo mestiere tutti i giorni. Poi, esatto. Quindi devo dire, secondo me sui contenuti ancora possiamo spingerci un po' oltre, nel senso che noi abbiamo deciso di fare una televisione che non fosse fiction, quindi in qualche modo ci limitiamo già molto come offerta. E sul mondo del factual c'è sicuramente ancora molto da scoprire. La cosa che... È quello che tu chiami mondo del factual, perché poi i nostri ascoltatori si lamentano perché non capiscono i termini, perché in effetti, Laura, siccome uso dei termini tecnici, perché il mestiere mi sta guardando con una faccia, non volevo farlo, ma è bene istintivo, perché poi nella quotidianità appunto si usano. Allora spieghiamo cosa... Spieghiamo. Cioè, la differenza fra fiction e factual, no? Benissimo, quindi la fiction la conoscete tutti, nel senso che sono i programmi che vedete, le serie televisive, le soap, i film, eccetera. Mentre il factual è tutto quello che non è fiction. Che è vero. Che è vero, che è realtà, che è fatto con protagonisti veri, che racconta in diverse forme. Può essere dal classico documentario che conosciamo noi di memoria, diciamo Piero Angela, quindi osservazionale, dove si vedono, fino all'evoluzione di quel genere lì, cioè della realtà, fatto con una qualità e comunque una serialità che assomiglia moltissimo alla fiction, ma però è vero. Per esempio, non so se conoscete Il Boss e le Torte, che è la storia in qualche modo di questo Buddy Valastro, pasticcere estremo, che ormai ha 7 stagioni, quindi quasi 80 episodi, si raccontano le vicende della propria famiglia, la pasticceria, ogni volta si vedono delle cose nuove, delle torte pazzesche. Quello che ha fatto, diciamo, dei nostri canali, questo genere, una grande novità e un grande successo. Questo, insomma, per spiegarci. Non c'è mai una cosa di finzione, è ovvio, poi è televisione, che poi vengono montate le cose, si sa, però sono personaggi che esistono là fuori, nel mondo reale. Sono veri. Esatto. Certo. Dexter, per esempio, non c'è nel mondo reale, invece Buddy Velasco. Non lo sappiamo, ah, beh, è vero, magari. Magari non lo sappiamo, in effetti. Anna Maria Venera, buona domenica. Buongiorno. Allora, è ancora vero che noi maschi giochiamo con i soldatini e le femmine giocano con le bambole, oppure ormai, diciamo, anche i giochi si stanno mischiando, anche i generi, nel senso, almeno per quanto riguarda il giocare con le cose, c'è una scelta che viene ancora una volta data dall'istinto, dal DNA? Te lo chiedo perché insieme a Paola Ricchiardi avete scritto Giochi da maschi, da femmine e da tutti e due, studi e ricerche, sì, sul gioco e le differenze di genere proprio. Sì, noi qualche anno fa abbiamo condotto questa ricerca proprio sulla relazione fra gioco e differenze di genere, e la scelta dell'utilizzare il gioco è perché il gioco poi è connaturato nella vita del bambino, no? Dell'infanzia, e ti porta proprio a poter ragionare meglio e a capire meglio quando si sviluppa il concetto di genere nell'infanzia. E quindi abbiamo fatto tutta una serie di analisi sia storico-pedagogiche, quindi partendo proprio dai giochi dell'antichità, dove chiaramente i giocattoli che erano già contenuti per esempio nelle tombe erano già giochi molto strutturati, no? per genere, perché comunque la donna era cresceva per essere poi futura mamma e futura moglie, stessa cosa il bambino cresceva per fare una professione ben specifica. Questo differenziare il gioco si è poi sviluppato fino ai giorni nostri, nel senso che il giocattolo, che è uno strumento che rappresenta la realtà in tutta la sua anche tecnologia e attualità, poi in realtà nella commercializzazione del giocattolo lo vediamo molto differenziato, ovvero se un bambino di 3-4 anni ha piacere di giocare con un aspirapolvere, che non c'è nulla di male perché gli consente di poter sviluppare la fantasia, la creatività, ma anche la simbologia dell'oggetto che magari in casa è utilizzato dalla mamma o dal papà, in realtà poi in commercio viene venduto soltanto di colore rosa, e spesso le famiglie, sì, si rifiutano ad acquistarlo perché il rosa o l'azzurro rappresenta poi il modo proprio di differenziare genere al massimo dei livelli, il giocattolo. Quindi in realtà dalla nostra ricerca, in cui noi abbiamo analizzato decine e decine di giocattoli, abbiamo potuto riscontrare quanti giocattoli siano poi, pur essendo che possono essere utilizzati sia da maschi che da femmine, molto connaturati per genere, sia per colore, sia per forma, sia anche con stereotipi non cosiddetti espliciti, cioè per esempio dei personaggi che possono essere adoperati sia maschile che femminile vengono rappresentati attraverso delle immagini, sia sui cataloghi, sia sulle immagini delle scatole dei giocattoli, molto connaturati per professione o per scelta proprio anche sociale, cioè il papà legge il giornale davanti alla televisione e la mamma prepara il pranzo. Allora, qual è la rappresentazione del giocattolo oggi, no? Cioè, sarebbe questa la domanda alla quale dovremmo risponderci: come mai il mercato nel giocattolo, nonostante proponga dei giocattoli molto tecnologici, poi ce li rappresenti in un modo molto stereotipato. Quindi, insomma, tu dici ancora un po', ancora oggi è il mercato che divide in qualche modo, sì, al di là, sì, del gusto, dell'istinto, che invece potrebbe spaziare senza, sì, nessun problema. Sì. per esempio dall'indagine che si è sviluppata anche attraverso una serie di interviste, sì? le stesse bambine amerebbero molto giocare a livello informatico e tecnologico, no? E quindi per esempio molti videogiochi, molti software sono stati creati anche per le bambine, ma perché differenziarli? No, infatti non ha assolutamente senso, è stato fatto anche con successo, devo dire. È chiaro, come diceva la vostra ospite, sicuramente ci sono delle preferenze, quindi il gioco del calcio è più acquistato dai bambini che dalle bambine, però è chiaro che se tu già rappresenti la console o il videogioco di colore rosa o rappresenti il farsi belle, è chiaro che vai a spingere determinate vendite differenziandole per genere. Difatti nella ricerca viene fuori che le bambine che hanno dei fratelli all'interno, sì, della famiglia hanno l'opportunità di giocare in modo differenziato, perché vanno a fregare il giocattolo al fratello e possono giocare anche con quello. Stessa cosa il maschietto, perché non c'è nulla di male per il maschietto giocare con le bambole, magari giocare con le bambole facendo finta di, e il giocare nella forma simbolica, no? Quindi entrare in una cornice di gioco e far finta di fare altro. Allora questa modalità del poter giocare in modo diverso lo concediamo sempre meno ai nostri figli e ai nostri bambini. Ecco. Invece dovremmo far spaziare di più la fantasia e la creatività. Anche perché il gioco comunque è uno strumento educativo straordinario, e quindi Anna Maria, dalle vostre ricerche poi è emerso che comunque il gioco va a condizionare anche quella che è la vita futura dei bambini? Sì, sì, o il pensiero, insomma. È chiaro che non è soltanto il gioco, nel senso che il genere poi come si va a costruire? Si va a costruire attraverso la socializzazione dei ruoli sessuali, quindi sicuramente entrano in gioco molte cose, per esempio l'abbigliamento va a influenzare il genere, sicuramente la televisione, sicuramente tutto quello che fa parte della vita reale va a influenzare le scelte dei bambini e delle bambine anche nel loro modo di giocare. Quando parlo di abbigliamento, se il bambino ha visto una serie di zainetti o di scarpe colorate in un certo modo che rappresentano il supereroe, sicuramente indurrà l'acquisto ai genitori rispetto a quell'oggetto, non un altro. Quindi non è soltanto il gioco, però il gioco, che sicuramente fa parte proprio della vita dell'infanzia, è molto connaturato oggi per molto di più del passato. Ecco, Anna Maria, poi per chiudere, ma semplicemente questo, il gioco invece in scatola, cioè tipo il Monopoli per intenderci, sì, ovviamente quello di genere non ne ha, giusto, sì, credo. E, siccome ne parleremo la settimana prossima, faremo una puntata domenica prossima dedicata esclusivamente ai giochi, e i giochi anche insegnati addirittura nelle scuole, e quindi magari poi ti riaveremo come ospite per parlare invece di quell'aspetto, se vorrai essere con noi. Sì, sì, sì, volentieri. Grazie Anna Maria, Venere, buona domenica, ciao, grazie. Vi ricordo il libro Giochi da maschi, da femmine e da tutti e due, studi e ricerche sul gioco e le differenze di genere. Il riposo del guerriero. Le 11:06, riposo del guerriero, oggi maschi contro femmine, insomma differenza di generi, differenze a quanto pare ci sono, Laura, ce ne sono tante. Intanto ti do qualche spunto. Chiara vorrebbe vedere un programma di oggettistica che spieghi la funzione degli utensili o utensili. Devo chiedere alla nostra Dragotto, vari e misteriosi. Bello, mica male. Ti piace? Grazie. Sì, bene, sì. Okay. Poi allora, invece Valerio, no, Giovanni, scusami, dice, mi piacerebbe un programma di lezioni del fai da te, cartongesso, cassette in legno. Beh, ma quello un po' c'è, no? Cioè, Paint, sì, Your Life è quella cosa, sì, lì, esatto. Dovrebbe essere più anche come fatto un programma sugli oggetti che va molto bene su D-Max. Poi come fai però? Se prendi una puntata poi non sai come si fa, devi andare a scaricare. No, ma la cosa funziona? Bella è che noi abbiamo, a parte li mettiamo anche in replica le cose, e quindi è un modello anche di visione, sì, un po' diverso, e poi sul sito si trovano tutte le informazioni. O corsi di lingue straniere con conversazione, però non può essere interattiva, questa la vediamo un po' difficile. Onestamente la vediamo un pochino difficile. Il maschio è cambiato, un'identità ormai si è persa, forse quella degli uomini. Arnaldo Spallacci, buona domenica. Pronto? Pronto, Arnaldo, buona domenica. Allora, grazie. Il libro pubblicato è Maschi, il mulino. E come sono i maschi oggi, Arnaldo? Ma adesso dire in un secondo soltanto è un po' difficile, certo. È un pochettino difficile, certamente. Cos'è cambiato? Ma l'idea generale che si espone all'interno del libro è che i maschi sono cambiati moltissimo, diciamo soprattutto a partire dagli anni 60-70 del Novecento. Per quanto riguarda specificatamente il problema che voi state esaminando oggi, ad esempio, la cura di sé, no, come elemento abbastanza nuovo del maschile, è un aspetto che è esaminato molto dalla letteratura anche sociologica, psicologica, eccetera. Quindi un aspetto di movimento esiste sicuramente. Quindi gli uomini più narcisisti rispetto al passato, questo è? Questo sicuramente. La cosa importante è che alcuni atteggiamenti maschili rispetto alla cura di sé una volta erano impensabili. Capito, soltanto 50 o 60 anni fa un uomo che avesse fatto, che si fosse curato come fa oggi, sarebbe stato preso in giro, considerato stupido, addirittura ancora peggio. Un altro aspetto che è interessante per le cose che voi dite, mi sembra, è che secondo molti studi anche di letteratura sociologica, anche di altri campi, si ritiene ad esempio che questa cura di sé derivi anche da un'incertezza maschile odierna più forte che una volta. Ecco, proprio di questo nel libro si parla di ansia per una virilità ormai incerta e l'uomo quindi cerca di ritrovare la propria virilità che non viene più riconosciuta, secondo il tuo studio, Arnaldo. Ma una ricerca della virilità in senso stretto per me oggi non esiste più tanto. Io credo che l'uomo si stiano muovendo su vie diverse. Poi bisogna tener conto di un fatto importante, che il maschile evidentemente non è una cosa omogenea, no? Sì, è molto certo. Differenziato oggi. Probabilmente era più omogeneo una volta, quando esistevano dei modelli che gli uomini seguivano. Oggi c'è una differenziazione profonda molto forte. Io direi che un punto interessante, proprio per le cose che voi state esaminando, è quello di legare il discorso dei consumi che ha fatto lei, no, che hai fatto tu, che sì, hanno fatto le vostre interlocutrici, eccetera, con l'apparire di un uomo diverso, tendenzialmente nuovo. Cioè, le faccio solo un esempio, sì, faccio solo un esempio. Ad esempio, il collegamento col circuito del consumo oggi degli uomini è estremamente più forte di quello di una volta. E quindi lo stesso consumo, il circuito del consumo, condiziona l'immagine e la trasformazione degli uomini oggi. Cioè sono influenzabili dal consumo, capito? Questo voglio dire. Prima invece era diverso, per cui c'è comunque il genere sta cambiando in questo senso e c'è finalmente una sorta di sovrapposizione. Chissà se arriveremo mai a poi non avere quasi più differenze, no? A parte quelle genetiche, ovviamente. Chissà cosa accadrà nel futuro, magari sarà così. Arnaldo Spallacci, la ringrazio. Il libro si intitola Maschi. Buona domenica. Grazie. Grazie a voi, ciao. Grazie. Laura, vedi, sembra che caratterialmente i generi non siano più così diversi, poi invece nelle scelte alla fine lo sono ancora, così marcatamente spaccati. Sì, è vero. Questo fa pensare, però un'altra cosa che mi faceva pensare sentendo i discorsi che stavate facendo è il fatto che quella figura dell'uomo che non deve chiedere mai, cioè sì, ti ricordi quella che sì, comunque è stata pubblicizzata fino a poco fa. Beh, del maschio, no? Era uno slogan. Era uno slogan. Sì. E è una figura che noi non ritroviamo più, per esempio, in quello che noi proponiamo al maschio italiano in televisione. Per esempio su D-Max gli uomini che noi, i protagonisti dei programmi, sono tutti un pochino che non si prendono sul serio, c'è molta ironia e non c'è più la figura del macho. Questo perché, devo dire, molto ci arriva anche dall'offerta internazionale. Cioè i nostri colleghi l'hanno capito molto prima. Arrivano dei programmi dove, appunto, ad esempio Mike Rowe in Lavori sporchi veramente si sporca le mani, fa delle robe proprio imbarazzanti e non perde la propria virilità, non c'è quella cosa dell'uomo, capito, sempre figo con intorno stuoli di belle donne in qualche modo al centro. E questa cosa secondo me è molto bella, cioè perdi un po', cioè questa ironia intelligente, diciamo, speriamo che sia, e trovo che sia un valore aggiunto sicuramente rispetto a quell'immagine dell'uomo di qualche tempo fa. E forse fa prendere anche un po' in giro le proprie caratterizzazioni, come forse ha fatto anche Enrico Groppali. Ciao Enrico, ben tornato. Bene, grazie. Qual è il tema di oggi? Lo sai bene, maschi contro femmine, perché tu in teatro stai portando qualcosa che ha molto a che fare con questo. Ah beh, sì, è vero, è vero. Se posso parlare ve lo dico subito. Come no, devi parlarci, allora, serve anche per questo, sei a teatro. Sì. Sto portando al Teatro Belli di Roma, oggi è l'ultima replica, ma poi mi hanno già contattato per Firenze e ancora per Milano, uno spettacolo di cui ho scritto il testo, uno strano monologo intitolato Io Saro Bernardi, perché ho scoperto tempo fa per caso, traducendo opere teatrali di Sara Bernard, il suo testamento, nel quale afferma, primo, che non crede che ci sia un Dio superiore, o se c'è, non sarà, dice, né meglio né peggio degli impresari con cui ho dovuto combattere tutta la vita. E secondariamente annuncia che prima o poi, quando le sarà consentito, tornerà sulla terra, ma questa volta non in vesti maschili, si trasformerà addirittura in un maschio e interpreterà la maggior parte dei ruoli maschili che le sono stati preclusi durante la sua lunga carriera d'attrice, nonostante avesse recitato il ruolo di Lorenzaccio, il ruolo di Amleto, ma adesso vorrebbe recitare Peleas e Melisande, Pierrot Assassino, Il Passante di Coppé e altri ruoli, tra cui anche Cyrano de Bergerac, lei che aveva interpretato l'Aiglon, e motiva la sua scelta dicendo «Ho avuto piuttosto successo anche nel travestì maschile durante la mia carriera, ma era così difficile». Dovevo fasciare i miei seni rigogliosi per non apparire grottesca, dovevo sforzarmi di non inciampare nei lunghi mantelli durante il duello con Orazio, dovevo impugnare la daga, la spada, giostrando in un'infinità di tornei, era una cosa infernale, invece adesso finalmente... E dice, cito testualmente, avendo quella graziosa piccola proboscide che voi maschi avete tra una gamba e l'altra, potrò dedicarmi profondamente al mio vero ruolo, quello di un uomo che seduce e odia le donne. Sto scrivendo un testo in questo senso, che si intitolerà Il martirio di San Sebastiano, ovvero il trionfo del maschio. E la cosa mi ha talmente divertito che allora ho ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera cercando di individuare quelli che erano i ruoli femminili che più si avvicinavano alla sua concezione. Ne è risultato uno spettacolo molto divertente che dura 50-60 minuti e che è stato accolto invece con grande successo e con grande interesse da parte del pubblico. Oggi all'ultima replica arrivano anche i critici, vedremo che cosa ne diranno. Beh, insomma, sarà anche uno spettacolo, lo vedremo, probabilmente hai detto a Firenze, speriamo, a Milano anche, adesso a Roma. Grazie davvero Enrico Groppali e poi insomma ti vedremo in scena e appena sarai ancora in cartellone lo annunceremo. Grazie ancora, buona domenica. Grazie a te, buona domenica. Il riposo del guerriero. Laura, siamo quasi in chiusura, almeno con te, ma non con il riposo del guerriero. Occuparti di una TV prettamente maschile, appunto che è l'IMAX, da donna è stato difficile da qualche punto di vista oppure no? Devo dire che direi di no, nel senso che noi abbiamo comunque, come ti dicevo, un grande supporto di studio e di ricerche. Poi ovviamente nel team che lavora al canale ci sono solo maschi, ho detto prendiamo solo maschi, almeno abbiamo una bella, come dire, persone che ci lavorano e sono perfettamente in target, quindi c'è anche un bel confronto. E poi ti dico, lavorare sulla programmazione, sui contenuti, alla fine è abbastanza un 80% veramente è quasi scientifico e poi c'è un 20% che, come si dice, un po' lo stomaco, la pancia, quindi in qualche modo è certo più complesso lavorare sul canale maschile per me che su quello femminile, però il team è talmente forte, siamo talmente comunque preparati da un punto di vista anche internazionale di supporto che devo dirti alla fine stanno funzionando le cose, meno male. Da donna c'è un argomento che non avresti mai pensato avrebbe potuto avere successo, invece è stato così? Sul pubblico femminile? Sul pubblico maschile. Sul pubblico maschile, beh, in realtà la magia. Cioè, io pensavo che comunque un programma come Dynamo, che è nato in onda, ti dico, con un successo d'ascolto, sul nostro record assoluto, abbiamo fatto quasi il 2-3% di share, venerdì sera. E la magia mi sembra una cosa antica. Ecco, l'illusionismo. L'illusionismo, esatto. Sì. Mi sembrava una cosa antica. In realtà poi fatto, come abbiamo proposto noi, con questo personaggio incredibile che fa street magic, quindi una rivisitazione, ha funzionato benissimo. Ma inizialmente ho detto no, vabbè, dai, ancora l'illusionismo. Mi pensavo subito un po' al discorso Silvan e quella roba lì. Invece c'è stata un'evoluzione enorme. Devo dire che questo... insomma, mi sono ricreduta. Vedi il mondo, le cose come cambiano. L'ultima cosa che ti chiedo è questa: se qualcuno volesse proporre qualcosa, come può fare? Assolutamente, abbiamo il nostro sito sia di Dmax che di Realtime, quindi realtimetv.it, dmaxtv.it, e abbiamo un legame continuo con i nostri ascoltatori, e quindi assolutamente ci trovano. Ci trovano, noi guardiamo tutto, cioè le idee veramente le vagliamo. Ecco, sappiate di essere letti. Siamo ecco, letti, non assolutamente, anche via. Su Facebook, anche insultato ogni tanto, però vi diamo delle risposte. Normale, vero, è bello perché quando comunque gli ascoltatori ascoltano, seguono o vedono e commentano anche in negativo, ma vuol dire che stanno ascoltando. Per bene. Cui questo vale anche per i miei ascoltatori. Grazie Laura Caraffoli, vicepresidente dei contenuti della programmazione di Discovery Italia. Buona domenica. Grazie tante. Grazie di essere stati con noi. È il momento della nostra invece glottologa Francesca Dragotto. Reason cold in ancient uso. Senti chi parla. Ciao Francesca, buona domenica. Buongiorno Stefano, buona domenica a te e a tutti. Allora, parliamo da un ascoltatore, si chiama Paolo, che ha commentato il tuo endorsato della settimana scorsa, parola che non vorremmo mai più vedere, né scritta né sentita, ma che lui ha recuperato. Esattamente, Paolo evidentemente è un ottimo conoscitore anche delle pieghe più colloquiali del latino. Mi rimprovera infatti di essere stata volutamente evasiva quando non ho riferito, a proposito dell'orribile endorsare, che in latino, di sicuro in latino tardo e medievale, esisteva un endorsare dal significato del tutto diverso da quello di approvare. Un significato derivato da dorsum, il dorso, la parte di dietro, che naturalmente, prefissato con in, aveva significato di mettere sul dorso, mettere sul di dietro. E da lì al lessico sessuale il passo è stato ecco, breve. Non è tanto appoggiare, quindi qualcosa di no. molto più pesante, quindi il significato è cambiato completamente, diciamolo. Sì, oggi infatti se si fosse mantenuto avremmo un endorsare significante, diciamo buggerare, quindi avremmo Guccini che dà la fregatura a Bersani e non Guccini che dà il proprio sostegno a Bersani. Grazie perciò a Paolo, perché alla luce del suo commento, quando questa settimana abbiamo letto la sconfitta del suo indorsato, un altro orribile termine, abbiamo potuto sorridere per un significato recondito completamente differente. E che adesso grazie a te possiamo conoscere. Sentiamo Rita Rusic invece. Rita Rusic hot sul lettino con il suo toy boy, bikini a Miami. Allora, qui abbiamo il toy boy, il termine che... Sì, il ragazzo giocattolo. Sì, mi vado a riallacciare al maschi contro femmine di cui avete parlato fino a un attimo fa. Rinuncio alla tentazione di digressioni etimologiche o relativa alla distribuzione di maschio versus uomo o di femmina versus donna per sollevare una questione che ha invece a che fare con gli stereotipi di genere. Stereotipi che ritengo molto più pericolosi di la Fornero in luogo di Fornero, di architetto in luogo di architetta, perché sono veicolatori di un sessismo cinico e spietato. Mi riferisco ai titoli tanti del medesimo tenore di quello che abbiamo sentito poco fa, in cui si parla di Rita Rusic, ex moglie di Cecchi Gori, il cui attuale compagno, lo stesso però si potrebbe dire anche per Demi Moore, Sharon Stone, Alessandra Martinez, è definito, attingendo ad un lessico che vorrebbe essere simpatico, ammiccante, ma che di fatto risulta invece asimmetrico rispetto a quello che si userebbe per... In una situazione contraria, appunto, viene definito fidanzato toy boy, fidanzato giovane e muscoloso, giovane aitante, giovanissimo e muscolosissimo fidanzato, fidanzato dal corpo mozzafiato, infine fidanzatino. Ora, il prestito toy boy, ragazzo giocattolo, che fa da contraltare ad espressioni solitamente riservate a donne, quali donna oggetto, che però non vengono impiegate quando si parla di donne molto più giovani dei propri partner. Il prestito toy boy, dicevo, a favore del quale ha probabilmente giocato anche la forma fonica, è andato ad occupare in tempi brevissimi un posto di tutto rilievo in quel repertorio di forme dell'italiano dei giornali che in sé non sembra avere valenza negativa, ma che invece si carica di una connotazione sessista, maschilista, nel momento in cui non si manca di sottolineare per chi eventualmente non la conoscesse, l'età della protagonista, che è quasi sempre una cinquantenne o più, che però per forma fisica dimostra assai meno dei suoi anni. Ora, l'azione, e poi chiudo, dello stereotipo di genere agisce in modo doppiamente surrettizio, quindi in modo sotto pelle, sotto traccia, perché fa leva contemporaneamente sulla passatezza della donna 52enne e sull'ironia riservata a quelle donne che si consentono il lusso, cito da un articolo di giornale, oppure hanno il privilegio, cito di nuovo, di una relazione con un uomo molto più giovane di loro. Quando invece la differenza di età è sbilanciata in senso opposto, ecco allora che si avrà una signorina di 60 anni più giovane nel caso della futura moglie di Hefner, patronna di Playboy, naturalmente cito anche in questo caso. E quindi cambiamo modo di dire le cose, visto che di questo si tratta. Sempre dai giornali abbiamo un altro passo da ascoltare. Berlusconi ancora in campo, cronaca d'un ritorno annunciato. Il passo indietro per i moderati? Acqua passata. Era l'8 ottobre scorso. Poi c'è stata la sentenza Mediaset e il tracollo del PDL. Un promemoria di gaffe. Francesca. Sì, la forma di cui voglio parlare è ancora in campo, una variazione di scendere in campo che da quasi due decenni sembra aver fatto dimenticare ai parlanti italiani l'esistenza di forme quali candidatura, in special modo quando il protagonista... Beh sì, certo. È vero, ho fatto una ricerca anche nei giornali dell'ultimo decennio e quasi sempre quando si tratta di Silvio Berlusconi la parola, o meglio il giro di parole che ricorre è quello relativo allo scendere in campo. Ho selezionato questo titolo perché negli scorsi giorni, dopo tempo, la parola per candidatura, che etimologicamente è correlata al colore bianco, perché appunto non a caso ci fa pensare a Candido perché il candidato era colui che manifestava la propria intenzione di concorrere per una carica indossando una toga bianca, il candidato per l'appunto ha finalmente trovato spazio in parecchi titoli riferiti a Berlusconi. Più precisamente la parola ricandidatura. Ora non sappiamo se si sia trattato di una scelta dettata dalla volontà di evitare ridiscesa in campo, che peraltro si è sentita e letta nei commenti, ma molto poco nei titoli, perché forse perché è troppo lungo, perché ridiscesa suona quasi come una presa in giro, oppure non sappiamo se si sia trattato di un tardivo pentimento, francamente ci credo poco. Sta di fatto che il reimpiego di candidatura ha regalato a molti di noi l'illusione di poterci liberare, anche se momentaneamente, anche di Election Day e magari anche di premierato e di lideraggio. Insomma, doveva pure esserci un giorno delle elezioni prima dell'Election Day, perché non ripristinarlo? Ecco, quindi ci siamo riusciti, meno male. Arrivano anche le parlamentarie. Parlamentarie, Movimento 5 Stelle in rosa. Le più votate sono 3 donne. Abbiamo le parlamentarie adesso, se lo sono inventati ieri, com'è? Sì, in questo caso la neoformazione è funzionale a far passare l'idea di una novità senza precedenti. La nuova parola è alternativa ad un giro di parole, ad una perifrasi che sarebbe primarie per le elezioni parlamentari, che di parlamentarie è anche la definizione, e che si è resa necessaria per far arrivare prima e meglio agli italiani la portata innovativa della consultazione preelettorale proposta dal Movimento 5 Stelle. Non è infatti un caso che sia stata coniata dagli stessi attori politici implicati nell'indizione delle parlamentarie e non dai giornalisti. Un'innovazione linguistica per una vera innovazione, ma o forse solo strategia di comunicazione e di marketing, perlomeno non si tratta di un conio fine a se stesso. Beh, però ci piace, devo dire che parlamentaria ci piace, perché rende l'idea, mi sembra una buona costruzione, almeno dal mio punto di vista, forse da pubblicitario lo dico. Ma sicuramente non è un doppione che appunto ha un doppione semmai in un giro di parole, però non ha un doppione in singole parole che sono state scalzate a seguito dell'introduzione di parlamentari, per cui sicuramente meno da bollare, ma da tenere sotto osservazione per capire se si tratta di un fenomeno occasionale oppure destinato a prendere piede nel lessico italiano. Ecco, velocemente invece c'è un tormentone che avremmo voluto inventare noi. Sì. Opa Gangnam Style S.P.A. Un tormentone da 10 milioni. La hit di Psy è una macchina da soldi. Tra spot TV, download da iTunes e click su YouTube, il re del K-pop è già diventato uno degli uomini più ricchi di Corea. Ci ha fatto capire il futuro del mercato della musica, dice Larry Page a Didi Google, uno dei primi beneficiari della Open Gangnam Mania. Ecco, rido perché siccome degli ascoltatori si sono lamentati con Laura, che è ancora con me, dell'utilizzo a volte di termini inglesi incomprensibili, qua non si è capito poche parole, niente dell'articolo che abbiamo preso. in prestito. Esattamente, si commenta da solo, anzi non si commenta perché non si capisce neppure, a meno di non conoscere le fortunate vicende del coreano le cui performance sono state scaricate in senso internetiano, purtroppo, già da quasi 1 milione di utenti. A ben pensarci però un commento lo avrei trovato. Rimando per considerazioni più dettagliate a tuttopoli.com e vi lascio invece con un altro passaggio. Sei giovane, sei trendy, sei up to date. Scegli la nuova Glassaponti per rendere creativi il tuo lunch, il tuo crunch nel tuo loft. No ragazzi, brunch, crunch. Ma che ne parliamo ai giovani, Tognazzi? Con sto look. Ma se dicessi che sta bene su tutto, specialmente sulle patatine. Comunque hai una... Come si sta chiedendo se lei può piacere ai giovani? Una pubblicità che quindi prende un po' in giro questo modo giovane di dire le cose. La prima parte di questo spot mi sembrava davvero calzante per poter irridere a questo articolo che veramente risulta del tutto opaco a quei parlanti che non conoscano perfettamente ciò che viene presupposto nell'articolo. C'è veramente una sfilza di anglismi che poi spesso non sono neppure veri anglismi, che si potrebbe sinceramente evitare. Per cui mi piaceva l'idea della ribellione del protagonista dello spot, che dicendo ma quale loft, crunch, brunch, proponeva di passare altrove a dispetto dei propri committenti. Ecco, perché insomma una scrittura così alla fine rischia solo di non essere affatto compresa e non certo di essere giovane. Grazie Francesca Dragotto, grazie, ci sentiamo domenica prossima. Buona domenica. Ciao, grazie. Il riposo del guerriero. E anche in cucina credo che ci siano i maschi contro le femmine. Il gastronauta. Ma mi pare che siano le femmine ad avere la meglio in questo periodo, vero Davide? Buona giornata, buona domenica. Ma buona giornata. Devo dire che bisogna un po' distinguere tra casa e ristorante. Sicuramente in casa, anche se c'è una grande crescita degli uomini in cucina, le donne no, dominano ancora in maniera stragrante, mentre al ristorante un tempo non c'erano donne stellate. Oggi invece in Italia diciamo siamo ricchi di donne stellate, quindi c'è un cambiamento sicuramente di percorso, e credo che lo siano anche sul vino, perché oggi le donne come degustatrici, come intenditrici, come consumatrici stanno crescendo veramente tantissimo, e quindi devo dire che c'è una completa rivoluzione, anzi dovrei dire che sulla degustazione del vino le donne veramente sempre di più sono straordinarie. Anni fa infatti è uscito uno studio, non mi ricordo di quale università, ma ogni tanto escono questi studi un po' particolari, dove diceva che le qualità degustative delle donne sui profumi e sugli odori sono decisamente superiori a quelli dell'uomo. Quindi che devo dire? Devo dire che devo alzare bandiera bianca. Vabbè, ma scusa, meglio così, nel senso che è una buona collaborazione. Dovrebbe esserci anche una gastronauta, tanto gastronauta non ha genere, per cui va bene per tutti. No, ma io ricevo molte mail, molte lettere così da donne interessate al prodotto, interessate alla cucina. Sicuramente c'è una grande crescita, non ci sono dubbi, non sono più solamente relegate nelle cucine di casa le donne, anzi devo dire che sempre di più sono protagoniste. Basta vedere anche nel mondo del vino delle produttrici, sì. Beh, sono tantissime, sono molto ma molto brave, diciamo che le nuove leve sono prevalentemente donne, quindi c'è un qualcosa che è cambiato sicuramente. Ecco, c'è qualcosa di nuovo, anzi di antico, verrebbe da dire. Davide, invece sulla scelta nella carta di un menù, secondo te c'è differenza di genere? Cioè gli uomini principalmente scelgono determinati piatti e le donne altri? Ma questo non saprei, magari le donne sono portate, diciamo, come posso dire, scegliere verdure, ecco, insalate. Questo lo vedo di più come un fatto sì, femminile. Però a parte insomma, tra virgolette, dieta, cioè quando si esce a cena per mangiarsi qualcosa, no, anche nel insomma, abbiamo parlato anche prima con Laura, diceva fondamentalmente la cucina è qualcosa che unisce, anche se agli uomini piace di più la sfida in generale, quando si parlava di cucina televisiva, e quindi forse lì, esatto, a parte poi la scelta dell'insalata, ma quella forse un po' uno stereotipo. No, devo dire, non è uno stereotipo. No, dici che c'è, no, invece no, più, no. È proprio marcata, esiste? Io credo che sia marcata, esiste, perché anche le donne gourmet, sì, ogni tanto sentono questo fatto della leggerezza, l'uomo non lo sente, il fatto della leggerezza, di mangiare leggero. Oddio, devo dire che molte volte vedo le donne scegliere la frippa, e questo potrebbe essere così, non è sicuramente uno stereotipo, però la donna mette sempre vicino al piatto, che sia anche di carne o di pesce, qualcosa che sia di verde, secondo me, sì. mentre l'uomo magari sempre meno, e magari a fine pasto si mangia i formaggi. Sì, certo, beh, anche perché c'è sì. Scusa, poi arriviamo all'ultimo punto, sì. I dolci. Ecco, i dolci tu vedi sempre anche donne, diciamo, mangiatrici, nel senso che sono buon gustai e quindi non si tirano indietro. Però difficilmente vedi una donna che ordina alla fine, dopo due piatti o tre piatti, ordina il dolce. Questo perché fa parte appunto di questa difesa del proprio corpo, che sicuramente e del proprio benessere, che sicuramente è superiore a quello dell'uomo. Ecco, quindi insomma c'è attenzione in questo senso, la differenza è qua. E, tra l'altro, poi per chiudere, a quanto pare mi dicevi che le donne preferiscono curiosamente di più i vini rossi a quelli bianchi. Ma sì, anche questo sì che è uno stereotipo, che si pensa che le donne scelgono il rosé, sì, perché magari scelgono il bianco, ma non è assolutamente vero. Cioè, io vedo donne che sanno mangiare, sanno bere, e sicuramente scelgono il rosso, non è vero che scelgono i vini bianchi leggeri. E devo dire che vedo molte donne scegliere le bollicine, ma le bollicine non tanto perché ritengono che sia più leggero, proprio perché piacciono alle donne, certo, i vini con le bolle. Le bollicine perché vale bere bollicine. Grazie Davide, ci sentiamo domenica prossima, buona domenica. Alla prossima, ciao. Grazie, noi ci spostiamo a Venezia, al Museo Correr, fino al 6 gennaio. Francesco Guardi, per voi i biglietti d'ingresso e il catalogo della mostra. Francesco Guardi in 24 minuti. Per voi, infatti, la possibilità di entrare al museo e vedere questa straordinaria mostra che festeggia il terzo centenario della nascita di Francesco Guardi, dovete cercare di associare il titolo di una delle opere di Guardi alle canzoni che vi farò ascoltare. Chi ci riuscirà porterà a casa appunto i biglietti d'ingresso e anche il catalogo della mostra. Il numero per prenotarsi 800 24 00 24, e io vi aiuterò come al solito per cercare la risposta, e farò di tutto perché ci possiate riuscire, e questo è l'indizio. Distesa ogni giorno tra il mare e la sabbia, dal sole che scotta ti lasci bruciare, sul naso e sulle spalle sei velata, che matta, nera nera, ah, nera nera nera, forse deciso di farmi dispetto. Il ponte di Rialto dalle fondamenta del Carbon. Tu sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera come il Carbon. Una rivisitazione di Sei diventata nera, però insomma, per suggerire la risposta in regia, in realtà l'ho suggerita, l'ho detta proprio in onda, senza, ci siamo accorti troppo tardi, e questo succede quando i tasti si incastrano tra le dita. Nicolò da Milano, buona giornata, ciao. Buongiorno. Penso di averti aiutato abbastanza, perché la risposta l'ho data in onda, per cui sì, dovresti potermi rispondere. Io non ascoltavo. Eccolo là. Era come non ascoltavi, che eri al telefono e stavamo facendo ascoltare la radio il telefono. Eri disattento. Si vede di sì. Ho dato la risposta proprio, cioè tutta quanta. Bene, allora, bene. Io cerco di aiutarti. Allora, Nicolò, allora, qual è l'oggetto principale di questa canzone? Sei diventata nera come che cosa? Come il carbone. Il carbone, esatto. Allora, pensiamo che fosse l'incendio a San Marcuola. E invece no, Nicolò, mi dispiace. Grazie, grazie della tua risposta. Ciao, grazie. 800 24 00 24. Maria Pia da Reggio Emilia. Ciao Maria Pia, buongiorno. Ciao Stefano. Ciao, allora hai sentito la risposta che ho dato? In poche parole? Non credo, no, mi sono neanche messa tu, da poco e volevo un attimo capire come funziona. Allora, quindi tu dovresti riuscire a capire il titolo di una delle opere di Francesco Guardi che possiamo associare alla canzone che abbiamo ascoltato. Allora, abbiamo già capito che la parola chiave è carbon. Allora ti aiuto dicendo, qual è il ponte più famoso di Rialto. Venezia, il ponte di Rialto. Allora, il ponte di Rialto da, il titolo dell'opera è il ponte di Rialto dalle fondamenta del non riesco. Il ponte di Rialto dalle fondamenta, perché è una visione, no? Allora, Guardi aveva dipinto il ponte di Rialto visto dalle fondamenta del, e gli manca una parola che però abbiamo detto poco prima. No, non ho sentito, non ero attenta. Non eri attenta. Maria Pia, mi dispiace. No. Ciao, buona domenica. Ciao, anche ciao, a te. Ciao, ciao. Allora, Salini da Roma. Ciao Salini, buongiorno. Sì, buongiorno. Buona domenica. Allora, tu riesci a darmi questa risposta. Il titolo dell'opera di Francesco Guardi è Il ponte di Rialto dalle fondamenta del... Il ponte di Rialto... No, io mi ricordavo uno che era il ponte di Rialto con la riva del Vin, però non ha... No, e dalle fondamenta del... Pensavo la che fosse Piazza San Marco, però a questo punto no. No. No. È un'altra delle possibilità, ma non è quella giusta. È bello perché ho dato la risposta in diretta, ma non vi siete accorti che io l'abbia fatto, e questo è interessante. Ma è facile però, perché è legato alla canzone che abbiamo ascoltato, Sei diventata nera come il carbone, quindi... Il ponte di Rialto dà le fondamenta del... Il carbone, però... Non del carbone, ma quasi. Francesco Guardi in 24 minuti. Se ce la facciamo, facile. Da volevo leggere un messaggio di Paola, di Como, che scrive... Davide Porini non mi conosce, sono donna e sto andando in Valtellina a mangiare pizzoccheri e pure il dolce. E poi anche l'amaro e sono magra come un'acciuga. Oh, là. Raffaella da Bologna, buona domenica Raffaella. Buongiorno, buona domenica anche a lei. Allora, la diamo questa risposta che ho già dato da solo e quindi sì, vorrei... Sì, la diamo. Vai, Raffaella. Allora, il ponte di Rialto dalle fondamenta del carbon. Era facile. Allora, per te allora l'ingresso alla mostra a Venezia fino al 6 gennaio e poi anche il catalogo della mostra, e se riesci goditi questa splendida città che direi per Natale ha un fascino particolare. Grazie Raffaella. Grazie molte. A te. Grazie. Laura da Roma, buongiorno Laura. Pronto, Laura? Buongiorno. Ciao Laura. Allora, per te c'è un altro quadro. Buongiorno. C'è un altro quadro da indovinare. Ti garantisco che il titolo è facilissimo, veramente molto facile, però devi spegnere la radio e ascoltare l'indizio che ti faccio sentire ora. E per chiudere il discorso, voglio dirti amore mio, questo è un arrivederci e non è certo un addio. Sarà facile incontrarsi, educato salutarsi. Quell'azzurro di sicuro non mi incanterà mai più. Sono passati solo 35 anni da quando Umberto Balsamo cantava questa canzone che è L'angelo azzurro, che forse Laura si ricorda o magari non era neanche nata. Laura, nel 77 eri già nata, sì. Laura, pronto? Sì, ero nata. Eri già nata. Ecco, allora, Laura, il titolo di quest'opera di Guardi è facile, perché ha a che fare sicuramente con questa canzone che si titola L'angelo azzurro. E l'angelo cos'è che può fare? Cos'è che fa l'angelo di solito? Vola. E vola, certo, ma soprattutto lì... Protegge. Protegge e tu non ce l'hai davanti, poi a un certo punto tu non hai niente davanti, poi a un certo punto l'angelo compagnia. Ti fa compagnia, la compagnia dell'angelo. Sì, Laura, quale potrebbe essere il titolo allora? L'angelo ha molto a che fare anche con questo periodo, eh? L'angelo freddolito. Grazie Laura, ti devo salutare, grazie ancora, buona domenica, mi dispiace. Chiara da Treviso, ciao Chiara. Pronto, buongiorno. Buongiorno a te. Allora l'angelo, quando non hai niente davanti, poi a un certo punto l'angelo cosa fa? Te lo vedi lì davanti. Annuncia, ma prima di annunciare fa una cosa. Prima non c'è e poi c'è, e quindi appare. Eccolo lì. E quindi l'apparizione di chi? Del l'angelo. L'apparizione dell'angelo. Ho vinto. Sì, era facile. L'apparizione dell'angelo, appunto. Anche per sì. Te i biglietti d'ingresso per il Museo Correr con la mostra di Guardi e il catalogo della mostra. Grazie Chiara. Grazie, arrivederci. Buona domenica, ciao. Altra canzone, altro giro. E questa poi di una facilità è la cosa più ovvia che voi possiate pensare se immaginate la città di cui parliamo in questa canzone. E non ti chiede niente, perché negli occhi tuoi e dentro la tua mente c'è soltanto lei. Come triste Venezia. Ma insomma, lui è andato con la fidanzata, poi la fidanzata non c'è più, c'è tornato a Venezia, dice da solo, un po' triste. Renzo, proprio da Venezia, buongiorno, buona domenica Renzo. Sì, buongiorno Stefano. Allora, pensando a questa città, visto che il titolo della canzone è Come triste Venezia, no? Sì. C'è uno stereotipo, proprio una cosa che a Venezia, quando si pensa a Venezia si pensa a quella cosa lì. Cos'è che si pensa? Ed è il titolo dell'opera di Guardi che dovresti dirmi. La nebbia. Non è la nebbia, non c'è sempre la nebbia a Venezia. Beh, insomma, abbastanza spesso. Ma qualche volta, ma c'è proprio una cosa che guarda, c'è 365 giorni all'anno, credo che sia ultra fotografata ed è proprio cantata anche da Charles Aznavour in questa canzone. E Renzo, mi dispiace, la risposta è sbagliata, non era la nebbia. Che rabbia. Mi dispiace. Anche a me. Ciao Renzo, sì, ciao. Buona giornata, grazie. Anche a te. Allora, Stefania da Roma, buona domenica Stefania. Buongiorno, buona domenica. Ciao. Allora, quando tu pensi a Venezia, pensi per forza a quella cosa lì, perché te la ritrovi anche a Roma, nei negozietti per i turisti, si vende quella cosa lì di Venezia. Allora mi viene in mente due cose, mi viene in mente la gondola. Non lo so, quindi il titolo potrebbe essere Souvenir, non penso che possa essere il titolo di un'opera di Guardi, i titoli erano un po' come sono un po' come del titolo di fotografie, no? Cioè lui prendeva spunto dalla realtà. Ritratto mi viene in mente, Stefania, no, niente, ciao. Cosa ti devo dire? Grazie, buona domenica, ciao. La risposta sarà per settimana prossima, mi raccomando, per Francesco Guardi, se riuscirete a indovinare per voi ingresso alla mostra e catalogo. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Nadia Zammetti in assistenza, Filippo Aureggi in regia, come sempre a voi anche per i vostri messaggi. Ci sentiamo domenica prossima puntuali alle 10 con il Riposo del Guerriero. Parleremo di giochi per tutti. Buona settimana da Stefano Gallarini.